Storielle. Storiacce di Raffaella Calandra. Il nostro collaboratore ha parlato di tre navi fatte arrivare tutte e tre in quella zona al largo di Cetraro, ma poi due di esse spostate in altre zone, perché farle naufragare tutte e tre nello stesso posto darebbe troppo nell'occhio. Letteralmente hanno detto: ma siamo scemi ad affondarle tutte e tre allo stesso posto. E allora hanno fatto affondare una delle tre, proprio la Kunski, un'altra l'hanno spostata verso Maratea e un'altra ha fatto il periplo della Calabria ed è stata poi fatta affondare al largo di Metaponto. Cetraro, Maratea e Metaponto. In una carta nautica dei veleni del Mediterraneo sono questi i primi punti già cerchiati in rosso, i punti dove navi intere di rifiuti sono state fatte affondare con i loro veleni tossici e i segreti inconfessabili di affari internazionali, criminalità organizzata e connivenze ad altissimo livello. Dopo anni di denunce e di racconti tramandati insieme alle storie di villaggi interi, il fantasma di questo mare cosentino è diventato un'immagine ben precisa, fotografata, ripresa e misurata. A 500 metri di profondità, lì il procuratore di Paola, Bruno Giordano, ha spedito un robot tecnico nel punto dove un ex affiliato all'Andrangheta, Francesco Fonti, ora collaboratore di giustizia, ha raccontato di aver personalmente fatto inabissare il relitto della Kunski. Quella carcassa, lunga un centinaio di metri, con uno squarcio che lascia intravedere due fusti, ora andrà esaminata, ma ha già dato una potente accelerazione ad un'inchiesta che mira a ricostruire l'intricata galassia di appoggi e connivenze internazionali dietro queste navi a perdere. Tutto lascia pensare che possa essere la Kunski, però io ho avviato naturalmente le indagini documentali del caso perché mi dicono se sulla scorta delle fotografie, quindi delle sequenze, se è possibile o meno pervenire all'esatta identificazione di quel battello naufragato nel Kunski. Tra l'altro non era più Kunski perché negli ultimi anni di navigazione aveva anche cambiato nome due volte. Lei ha parlato di supposto carico di veleni. In questi anni, ciclicamente legato anche a commissioni parlamentari d'inchiesta sui rifiuti, piuttosto che a denunce di vario tipo, di questi traffici si è parlato. Ma ecco, stando a quello che a voi risulta nel vostro fascicolo riguardante questa vicenda, se fosse verificato che quella nave individuata sia effettivamente la Kunski, che cosa conterrebbe al suo interno? Che cosa ha raccontato il pentito? In base alle dichiarazioni del collaboratore, conterrebbe al suo interno 120 fusti di sostanze radioattive. In effetti anche con riferimento a questo aspetto delle dichiarazioni del collaboratore abbiamo anche un primo momento di verifica sulla scorta delle riprese televisive effettuate dal ROV. Perché due fusti sono chiaramente visibili proprio all'esterno dello squarcio della nave, adagiati sul fondale e parzialmente deformati dalla compressione del mare. Presentano anche una sorta di chiusura particolare, di chiusura rinforzata, che pare che sia il medesimo tipo di chiusura che usualmente viene utilizzata per i fusti contenenti sostanze nocive, sostanze tossiche. Sembrerebbe di cogliere, ecco, che la stiva sia ancora parzialmente piena, quindi che un carico ci sia. Quei fusti giacciono lì da 16-17 anni, che sono quindi parzialmente rovinati, ossidati, e se contengono quel tipo di sostanze c'è il rischio che asportandoli da lì può darsi pure che possano cedere, possano aprirsi, creando dei guasti forse ancora maggiori rispetto a quello che producono giacendo lì. Ritornando a quei fusti, sostanze nocive, sostanze tossiche, radioattive, provenienti da dove? Questa è la grande incognita e il quesito a cui si vorrà dare una risposta. Da molti anni si parla di questi inabissamenti, addirittura si fanno i nomi delle navi scomparse, la Rigel, la Kunski, le altre due di cui ha parlato il collaboratore che sarebbero state inabissate a Maratea, a Metaponto, più tantissime altre inabissate nel canale di Sicilia, inabissate al largo della Grecia, eccetera, eccetera. Un discorso del genere, riferito a scorie radioattive, è chiaro che ha un coinvolgimento, diciamo così, no? A diversi anche altissimi livelli, e non soltanto in Italia, se vuole il mio parere, perché chiaramente un discorso del genere in una superficie terrestre che ormai quotidianamente, notte e giorno, è controllata dai satelliti e dai radar. Tutto questo non può essere avvenuto nell'acquiescenza di uno soltanto. E infatti anche il collaboratore parla proprio di rifiuti che non erano stati smaltiti all'estero. Il Mediterraneo è un mare anche francese, un mare spagnolo, è un mare greco, è un mare turco, è un mare nordafricano. Non credo che l'intolleranza di taluno dei paesi avrebbe consentito queste operazioni. O hanno avallato, o sapevano e hanno fatto finta di non sapere perché conveniva così. Fermo restando che io non sto fissando una responsabilità processuale in capo a nessuno. Nome in codice Pino, 30 anni e un fisico atletico. Era lui, secondo i racconti di fonti, l'anello di congiunzione tra l'Ndrangheta e gli apparati, un agente del servizio segreto militare con cui il pentito sarebbe entrato in contatto fin dal 1978, perché era lui, dichiara fonti, ad indicarmi la quantità di scorie che dovevamo far sparire. Scorie che si trasformavano poi in miliardi di vecchie lire versati in una banca svizzera, conto Whisky, agenzia aeroporto della banca UBS. Queste le indicazioni date direttamente da fonti. Indizi che fanno capire subito come l'Ndrangheta non sia stata che il netturbino di questi traffici sporchi ad altissime sfere, nota il procuratore Giordano. L'Ndrangheta sarà intervenuta certamente, come sempre interviene la criminalità organizzata in grossi fatti illeciti che avvengono o nel suo territorio o nelle adiacenze del suo territorio. Però voglio dire che in queste vicende l'Ndrangheta non sia stato altro che l'ultimo anello della catena, il netturbino della grande azienda che ha 50.000 dipendenti. L'Ndrangheta ha fatto esattamente questo, insomma, ecco. Non ha fatto altro che fornire l'esplosivo e il supporto logistico necessario per affondare le navi, ripulendo ovviamente da responsabilità figure che non potevano macchiarsi di queste, di questo tipo di iniziative, insomma. Ma riferirsi a questo affare come affare di 'Ndrangheta, secondo me, è un rovesciare la prospettiva. La 'Ndrangheta c'è entrata perché c'è avuto i suoi vantaggi economici e come esecutrice materiale si è prestata a fare quello che doveva. Il collaboratore ha anche parlato di quanto aveva reso questo tipo di operazione, quanto gli era stato pagato. Nel verbale di fonti, come riferimento economico, c'è solo il riferimento a 200 milioni che l'agente di San Luca e quindi anche il Fonti avrebbero dato a quelli di Cetraro, che si sono prestati a mettere a disposizione due motoscafi con cui portare l'esplosivo a bordo e riportare l'equipaggio dalla nave a terra. I soldi consegnati ai cetraresi alla malavita di Cetraro perché si prestassero a fornire i motoscafi, a trasportare l'esplosivo e a riportare l'equipaggio a terra, sono stati, a dire del Fonti, 200 milioni, come regalo fatto da quelli di San Luca a questi di Cetraro per questo loro sostegno logistico, il che lascia ovviamente ipotizzare che i soldi toccati alle cosche di San Luca che hanno patrocinato l'affare, sia pure nella sua fase esecutiva, sono stati enormemente maggiori, insomma, le ben di più, e questo lascia anche immaginare che cosa, quale giro d'affari ruoti e intorno. Questo lascia immaginare quale giro d'affari ruoti. E allora, se andiamo alla fonte, bisognerà vedere quanto avranno guadagnato coloro che, anziché provvedere allo smaltimento nelle forme di legge, hanno pensato bene di ricorrere a questo espediente. Ecco, procuratore, in questo caso, e lei stesso anche ce l'ha confermato parlandoci dell'interesse che c'è anche nei paesi del nord Europa verso questa vicenda, si parla appunto anche di carichi che provenissero dalla penisola scandinava, si parla della Norvegia, se non sbaglio, ne parla anche il collaboratore. Sì, si parla di Norvegia, si parla di Olanda, in genere si parla di un coinvolgimento internazionale europeo, specialmente del nord Europa, in questa vicenda. Tenga presente che c'era un doppio ritorno, facendola affondare, poi utilizzavano praticamente anche, riscuotevano anche il premio assicurativo. Certo, sicuramente, per cui immagino che anche le assicurazioni adesso siano interessate all'esito di questa inchiesta per cercare Per quelle che sono state denunziate alle assicurazioni come naufragate, insomma, che saranno una percentuale, ma non tutte. Dall'inizio della sua collaborazione nel 94, sentito da più procure, a cominciare da quella di Firenze e di Milano e da commissioni parlamentari, Fonti ha raccontato anche di un suo viaggio a metà degli anni 80 in Somalia, laddove, secondo le sue rivelazioni, approdavano rifiuti di ogni genere imbarcati nel porto di Livorno, proprio lì a Mogadiscio, mentre lavorava ad un'inchiesta su armi e rifiuti, fu uccisa l'inviata del TG3 Ilaria Alpi con il suo operatore, che aveva immortalato immagini che non dovevano essere trasmesse. L'attendibilità delle dichiarazioni di Fonti negli anni è stata giudicata in modo alterno e anche stavolta un boss dell'Andrangheta di Cetraro, Franco Muto, citato nei suoi verbali sull'affondamento della Kunski, lo ha querelato dicendo di non averlo mai conosciuto. Ma nella procura di Paola ripetono che in questo caso le indicazioni di Fonti sono state precise fino all'ultimo dettaglio, ma non c'è solo la discarica sotto al mare. Storielle. Storiacce. Fanghi di plutonio, questo contenevano i 1000 fusti provenienti dalla centrale nucleare del Garigliano, nel Casertano, che sarebbero stati fatti sparire in Somalia quasi 30 anni fa. Il pentito di 'Ndrangheta, Francesco Fonti, ha raccontato molte diramazioni dei traffici internazionali dei rifiuti, da tempo e più volte denunciate dai vertici di Legambiente in Calabria, a cominciare da Nuccio Barillà, che conta circa 30 navi a perdere disseminate solo nelle acque italiane del Mediterraneo. Denunce e dichiarazioni come quelle del pentito che, almeno per una vicenda, sembrano trovare ora conferma tangibile nelle immagini di una nave inabissata sotto il mare di Cetraro, nel Cosentino. Dobbiamo ancora però portare a galla il carico per esaminarlo, precisa con l'ostinazione di chi vuole andare fino in fondo senza lasciare spiragli di dubbi il procuratore di Paola, Bruno Giordano. Perché la Somalia? Io credo che la Somalia sia emblematica del terzo mondo. In atti estratti dalla commissione parlamentare che si è occupata del ciclo dei rifiuti negli anni passati, eccetera, e pare che ci siano dichiarazioni in tal senso, che è stato interessato il Marocco spagnolo, per esempio, per la parte di Sahara spagnolo, per esempio, la zona della Nigeria. Quindi io credo che in realtà Somalia sia l'emblema di un discorso che riguardi il terzo mondo nella sua interezza, ecco, più che la Somalia in senso stretto. Cioè, come altra possibile enorme discarica, chiamiamola così, cioè oltre alle navi affondate all'interno del Mediterraneo, un altro possibile sbocco di questi traffici illeciti che si avvalgono anche della mano della malavita organizzata, utilizzava anche i paesi africani come punto di approdo per scaricare rifiuti che non si... È questo il discorso? Però guardi, qua io riferisco semplicemente notizie apprese attraverso atti delle varie commissioni parlamentari. Relativamente al mio procedimento penale, io ho allo Stato una sola dichiarazione di Fonti, e si riferisce alla nave affondata al largo di Cetraro e le altre due che le facevano compagnia e che poi sono state fatte naufragare altrove. Dico che una logica del genere, se era un sistema di smaltimento che ha addirittura determinato l'affondamento di una trentina o di 100, come dicono altri, navi nel Mediterraneo, lei capisce che un'organizzazione di questo tipo non arretra di fronte a nulla. Ma in questo caso, con la parola, non equivochiamo, con la parola organizzazione non ci riferiamo all'Ndrangheta. L'Ndrangheta si è prestata per le operazioni avvenute qui. Per quello che attiene ai vostri atti, si parla anche delle scorie della centrale nucleare del Garigliano? Io ho fatto una similitudine, ho fatto ricorso a una similitudine per illustrare il mio ruolo in questa vicenda. Io ho detto di essere stato come il canguro che ha fatto un salto lungo, ha rubato la mela ed è tornato indietro con un medesimo salto, e che ora si trova a doverlo rifare questo percorso che porta nuovamente alla mela. Voglio dire questo: io non avevo molto nei miei atti, avevo dei tentativi fatti dal collega Greco negli anni precedenti, e avevo una delega all'ARPACAL che poi è stata evasa nel periodo in cui il procedimento è passato nelle mie mani. L'ARPACAL mi porta un'impronta rilevata al largo della costa di Cetraro. A questo punto io chiedo di approfondire, poiché gli organi istituzionali hanno detto di essere privi della strumentazione necessaria, di concerto con l'assessore greco abbiamo fatto ricorso a una società privata, la Nautilus di Vibo, che andando sul posto ha accertato l'esistenza della nave, del relitto e tutto quanto. Quindi voglio dire, i miei atti in fondo sono poveri con riferimento alle situazioni del mare, perché un discorso di 'Ndrangheta chiaramente è un discorso fondamentalmente di distrettuale. Questi atti vennero mandati a Paola perché qui era avvenuto lo spiaggiamento della Jolly Rosso e c'era un fascicolo aperto da parecchio tempo, perché potessero essere eventualmente utilizzati nel valore che potevano avere, perché il Fonte è un collaboratore di giustizia a cui nel tempo non si è creduto molto, perché pare che alcune circostanze da lui riferite su altre problematiche non siano state poi vagliate e verificate positivamente, il che ha fatto perdere di fiducia anche alle altre dichiarazioni, quelle che riguardavano probabilmente le situazioni a mare, capisci? Invece in questo caso, per quello che abbiamo verificato noi fino ad oggi, le dichiarazioni del Fonti sono riscontrate in una maniera direi quasi sconcertante. Sono precise e dettagliate. Eh sì, per il tipo di nave, per il tipo di squarcio, per la distanza, per la profondità, per i fusti, per tutto quanto. Quindi in questo caso noi possiamo dire di averla trovata per le sue indicazioni e certamente anche per la nostra ostinazione. Dopo i silenzi, le mancate risposte o i no ricevuti negli anni scorsi dal Ministero dell'Ambiente e dalla Marina, a cui i magistrati si erano rivolti in cerca di aiuti finanziari per portare a termine la spedizione subacquea, ora che le immagini della nave hanno fatto il giro del mondo, l'interesse è tornato alto e in molti si sono mossi, e anche la Commissione parlamentare d'inchiesta ha programmato una serie di audizioni a cominciare proprio dal procuratore Giordano. Ma laggiù, in questa fetta di Calabria, oltre al mare, anche la terra custodirebbe pericolosi rifiuti. Abbiamo due discariche di materiali pericolosissimi per la salute, anche se non radioattiva, come mercurio in concentrazioni di 200 rispetto a 1, bario, eccetera, eccetera. Abbiamo due discariche accertate, una addirittura un sarcofago ubicato sotto la briglia del torrentello, un sarcofago di un paio di metri di profondità, tutto cementato, che il collega greco all'epoca carotò, io feci sviluppare le ulteriori analisi e risultò esserci berillio, bario, eccetera, il tutto diciamo avvolto dal solito isolante, che è la polvere di marmo che si usa in casi del genere. Ne abbiamo una più a monte, un enorme cumulo, e poi abbiamo un punto di discarica da cui emerge e affiora radioattività in maniera consistente, che l'ARPACAL ha quantificato nella misura di 5-6 volte il valore normale, individuando anche i radionuclidi che la producono, che sarebbero artificiali. C'è in sede sempre di commissione parlamentare per il ciclo dei rifiuti, c'è un ex appartenente ai servizi di sicurezza che disse che le modalità di smaltimento dei rifiuti da parte del sistema erano queste, cioè o l'inabissamento di navi dopo averle ben imbottite di questo materiale, o il loro occultamento in cave dismesse che poi venivano sommerse con altro materiale sopra, o grotte o altri anfratti di pareti rocciose eccetera, dove potevano essere facilmente occultati. Quindi il fatto che diciamo in questa cava dismessa, guarda caso, e intorno alla quale ci sono tutta una serie di dati circostanziali che non posso riferirle perché coperti dal segreto istruttorio, perché sto svolgendo ulteriori indagini, il fatto che proprio una cava dismessa presenti queste caratteristiche collima tra l'altro anche con queste dichiarazioni. È un po' come nelle modalità che abbiamo visto anche nelle indagini sulla Camorra, anche lì, certo. In quel caso interramenti in cave dismesse coperte a volte anche da laghetti. Non si viene in possesso di scorie radioattive come se fosse una partita di agrumi, vengono gestite dagli stati con riferimento al funzionamento delle centrali nucleari. E a proposito invece delle discariche, voi avete in mano diciamo il Fonti della discarica di terra, qualcuno che vi parla di quelle discariche? Il Fonti della discarica di terra è stato il nostro spirito di iniziativa. Io avevo chiamato un tecnico del CNR, un esperto, attraverso le foto satellitari estraibili da internet si può avere subito una mappatura di aree sospette. L'area sospetta normalmente è caratterizzata normalmente da un livello di temperatura superiore rispetto al terreno circostante, viene a essere caratterizzata cromaticamente in rosso. E allora abbiamo tirato fuori queste foto satellitari. Questo ci è costato 100 euro al consulente, farcela avere. Dalla foto satellitare è emerso che ci sono, che c'erano nella vallata delle aree a maggiore escursione termica. Siamo andati lì e abbiamo verificato che questa coloritura corrispondeva a una differenza termica in Maius di 4-7 gradi. Quindi tant'è notevole. Vero che l'assessore greco, che è un ricercatore e un esperto, si mise le mani nei capelli. Allora abbiamo cominciato ad andare lì con i rilevatori, ce la siamo cercata noi, fermo restando che sulle dichiarazioni del Fonti per quanto riguarda la nave a mare, noi a convalide e a conferma abbiamo avuto anche qualche fonte confidenziale. Quindi una doppia verifica che vi ha portato certo, diretti sul posto, e quindi anche certo, sulle discariche a terra è stato già fatto un esame sulle sostanze che potrebbero esserci? Sugli ammassi di sostanze non radioattive, lì abbiamo fatto i carotaggi, lì non si scappa. Sulla radioattività, io una volta rilevata mi sono fermato per ovvie ragioni, perché sono i classici casi in cui l'accertamento dell'eventuale fatto reato deve coincidere con la bonifica del sito, perché io come faccio ad andare lì a scavare in un punto radioattivo? Chiaro. Faccio morire l'operaio che sta lavorando, faccio morire chi gli sta intorno, e una volta che ho scavato 10 metri faccio, richiudo subito di corsa. E a questo punto che cosa succede? Io mi sono rivolto all'assessorato, mi sono rivolto allo Stato, e è venuta anche la Protezione Civile con dei tecnici, poi loro hanno proceduto a una misurazione da cui emerge che è 3 volte superiore al normale, però che secondo loro dovrebbe essere da fondo naturale del terreno, e però di fatto a 10 metri di distanza non è più 3 volte superiore. A questo punto io dico, scaviamo anche di 1 metro e accertiamoci se 1 metro sotto sia sempre in quel modo o ci sia un aumento man mano che ci avviciniamo alla fonte di questa radioattività. A quel punto bisogna provvedere anche alla bonifica, perché qua l'incidenza dei tumori, che se ne dica, è stata notevole. Certo. Perché se lei percorre quella vallata in compagnia di gente del posto, si sente dire: in quella casa ne sono morti 3, in quella 2, in quella 3, in quella 2. È un luogo ameno, tra virgolette, lo si potrebbe dipingere così, se non fosse per questa iattura. Chi di dovere che faccia fino in fondo il proprio dovere, come l'ho fatto io, per la parte che mi ha riguardato.